21 settembre 394. Spinti dalla nostra indomita ostinazione, continuiamo ad aggirarci tra le rovine della biblioteca di Cartagine. È la dodicesima ora, il mare davanti a noi, oltre le terme Antonine, comincia a riflettere il porporello oro del tramonto. Ha preso finalmente a spirare una brezza che ci offre un po' di ristoro. Ipazia è tutta impolverata. La tunica blu scuro è diventata color cenere e anche il bel volto è ricoperto di un sottilissimo strato sabbioso. Ma le sue infaticabili mani persistono a rimuovere mattoni, legni marciti, lastre di marmo, a mettere a nudo anfratti e cunicoli. Continuo a gridarle di stare più attenta, potrebbero esserci dei serpenti. E proprio mentre mi avvicino a lei, intenta a spostare una piccola statua di Atena, monca delle braccia, rapido come una saetta, un rettile sguscia in mezzo ai nostri piedi, scomparendo nella polvere. Ma siamo così stanchi che non abbiamo nemmeno la forza di spaventarci. Ci guardiamo in faccia, ci mettiamo a ridere, ci appoggiamo a un gradino sotto un'arcata ancora intatta per riposare. Basta, Shalim, questo è l'ultimo tentativo. Ora che torniamo ad Alessandria, proviamo a raggiungere i sotterranei del Serapeo e speriamo di trovare quella copia dell'inizio del trattato di Moco e partiamo da lì per i nostri studi. Con il dorso di una mano cerca di pulirsi il volto e la fronte. Beh, era giusto farlo, ma forse il Vesuvio ha cancellato per sempre le ultime copie nella biblioteca di Ercolano. E anch'io provo a togliermi dal collo e dalla fronte quella sottilissima polvere sabbiosa che si è infiltrata nei capelli, nelle sopracciglia, nel naso. Pensandoci bene, perché mai Moco avrebbe dovuto fare tante copie del suo trattato? Stiamo parlando di 900 anni fa, quando studiare e addentrarsi nei misteri della vita non rappresentava alcun pericolo. A Moco non sarebbe mai venuto in mente di nascondere le sue opere in un'anfora, in un cimitero. Come poteva immaginare che un giorno qualcuno avrebbe bruciato templi e biblioteche? Alle nostre spalle uno stormo di gabbiani si leva in volo in modo disordinato. Ci giriamo e sotto di noi, nella spianata ai piedi della collinetta su cui ci troviamo, un uomo sta scendendo dal cavallo guardando verso la nostra direzione. La sua tunica rivela un sacerdote cattolico. È di piccola corporatura, agile ma slanciato, di carnagione scura, faccia aperta, schietta. Deve avere una quarantina d'anni, capelli ricci, lievemente stempiato, zigomi sporgenti. A pochi passi da noi, dilata gli occhi accesi. Alla locanda dove siete alloggiati mi hanno detto che eravate venuti qui. Ipazia, è bello rivederti. E fa un vistoso inchino. Agostino, ti scrissi proprio con la speranza di cogliere l'occasione della nostra venuta a Cartagine per incontrarti. E volgendosi verso di me mi presenta. La sua mano affusolata accenna a un saluto. Ma voi sapevate che questa biblioteca era stata distrutta e che non c'erano altro che rovine? E sorride con la sua bocca piccola. Possiede una voce bassa, sonora, flautata. Sì, ne eravamo a conoscenza, ma abbiamo voluto rovistare comunque. Come va, Agostino? Ti vedo carico di ardore, molto più di quando ci conoscemmo ad Alessandria. L'uomo volge il capo verso il mare dinanzi a noi, che sta avvampando mentre la brezza comincia a creare dorate striature. Vengo adesso dai porti punici. È giunta la notizia tanto attesa. Teodosio ha vinto la battaglia del Frigido. Dio vuole che il mondo sia interamente cristiano. E resta con lo sguardo immerso nell'orizzonte, negli occhi ardenti, il riflesso di quella luce. Ipazia lo fissa, sgomenta. Quando è accaduto? Cosa ne è stato di Nicomaco Flaviano? Agostino richiama lo sguardo dal rosso brillio del mare e si appoggia a una colonna scanalata di alabastro marino. Il grande scontro tra Occidente e Oriente, Eugenio e Flaviano contro Teodosio. L'ultimo esercito romano con le insegne del dio della folgore, Giove, e di suo figlio Ercole l'invincibile, contro l'esercito con l'insegna di Cristo, la croce. Questa volta era la battaglia tra gli dei pagani contro l'unico vero dio. Tra i falsi dei e Cristo, tra il male e il bene. Da questa battaglia dipendeva la salvezza dell'uomo. E schiude le braccia protendendo le mani. Il 5 settembre c'è stato il primo scontro, ma nessuno è riuscito a prevalere. Il giorno dopo è stato quello decisivo. Quando Arbogaste sembrava avere la meglio, dal cielo ha cominciato a spirare un vento divino, spaventoso, inarrestabile contro l'esercito dei falsi dei, contro l'esercito di Eugenio e Flaviano. Un vento freddo di tale impetuosità che riportava indietro le frecce, uccidendo gli stessi soldati che le avevano scagliate. La vittoria di Teodosio è stata rapida e implacabile. Ha fatto decapitare subito Eugenio e la sua testa, conficcata su una lancia, viene portata in giro per l'impero e presto potremo ammirarla anche qui a Cartagine e voi ad Alessandria. Il generale Arbogaste e il tuo amico Nicomaco Flaviano, invece, hanno seguito l'uso dei nobili romani, si sono uccisi. Ipazia abbassa gli occhi senza poter nascondere un guizzo di emozione, mentre io vengo assalito dal ricordo del prefetto, dalla sua voce armoniosa, dai suoi modi gentili. Ipazia, anche se tu sei pagana, oh, non chiamarmi così, ti prego. Pagano è un termine spregiativo, io sono Elena e sono stata educata a rispettare gli dèi venerati dai miei avi. E lo fissa con quegli occhi rilucenti che sembrano due piccoli soli. Ma non sono nemmeno una buona Elena, perché nessuna religione, nessun Dio è riuscito finora a colmare i miei dubbi, le mie incertezze e la mia sete di verità, come Cristo non è riuscito a placare quella di Shalim. Agostino sgrana gli occhi, mi fissa con uno stupore genuino, poi torna a cercare lo sguardo della mia maestra. Quello che volevo dirti è che gente come Claudiano, il tuo amico elleno e poeta Claudio Claudiano, ha convenuto che la battaglia del Frigido è stata vinta dall'esercito di Teodosio per intervento divino. Non siamo solo noi cristiani a dirlo. Ipazia lo scruta, scuotendo il capo. Un'espressione di incredulità sul volto, negli occhi. Sei tu la stessa persona con cui ho parlato qualche anno fa? Eri una mente libera, alla continua ricerca della verità. Come ha fatto Ambrogio? Quale leva della tua mente ha mosso? Oh, mi ha convinto che la verità non potrà mai essere raggiunta con la ragione, e quindi è perfettamente inutile dannarsi l'anima a cercarla. Ambrogio non si stancava mai di ripetermi che la lettera uccide, lo spirito invece vivifica. Sto cercando di capire come ha fatto. E protende la sua piccola mano che trema di emozione come la sua voce. E soprattutto se tu sei in buona fede o se reciti. Che dirti? Somigli a me, come ero io prima della rivelazione, prima che Dio mi parlasse al cuore Ipazia, non alla mente, e mi rivelasse la verità, e cioè che Dio è l'essere immutabile ed eterno, e quindi è Lui la verità. Si avvicina a noi. Siede su un capitello per metà sepolto in terra, ci scruta con un'espressione di stremata dolcezza. Leggo nei vostri occhi che siete sinceri, ma esattamente come ero io una volta, ciechi. E la cecità degli uomini è così grande che persino della propria cecità si gloriano. Adesso non capite, ma un giorno benedirete quel vento che Dio ha mandato in aiuto di Teodosio. Un vento che ha spazzato via un mondo in cui l'uomo viveva nel peccato senza esserne cosciente. L'uomo viveva nel male, adorava il male, precipitandosi verso la dannazione eterna senza nemmeno rendersene conto. L'umanità intera dovrà essere grata ad Ambrogio per aver imposto a Teodosio l'abolizione dei giochi olimpici, dei giochi pitici. I templi di Olimpia sono stati finalmente distrutti. Quelle manifestazioni avevano come scopo principale quello di celebrare riti ai falsi dei. Erano la rappresentazione del peccato. Quei corpi ignudi lottavano solo per la vittoria della carne. Lo so, Ipazia, tu ora stai per dirmi che io ho vissuto una vita nel peccato e ora che la gioventù è volata via mi sono messo a predicare, ma ora i miei occhi sanno riconoscere la luce e il bene. Ora il mio cuore. Il mio cuore, e protende le mani verso Ipazia, occhi accesi, umidi di emozione. Ora il mio cuore sa riconoscere nel corpo di una donna l'immondizia del male. Ipazia giunge le mani e le porta alla bocca, scrollando il capo, immalinconita ma non rassegnata. Agostino, in me non c'è una sola briciola di immondizia. Come non c'è immondizia nella donna che ti ha amato per tanti anni e che ti ha dato un figlio, come non c'è stata immondizia in te che l'hai amata per tanti anni. Cerca di frenare l'emozione che l'ha assalita, Perdonami se uso questa parola che tu hai formulato, ma è bene intendersi. Se esiste un liquame morale chiamato immondizia, ebbene sono pochi gli esseri umani portatori di questo liquame. Uno di essi è certamente colui che ti ha plagiato, Ambrogio, che ha inculcato in te e in tua madre l'idea di abbandonare la tua compagna, la madre di tuo figlio, per sposarti invece con quella giovanissima vergine creatura di Milano. Ma quella ragazza l'avrei sposata con la benedizione di Dio e di Ambrogio. E mentre attendevi che la fanciulla crescesse, hai cacciato la madre di tuo figlio e ti sei consolato con l'altra fanciulla? Magari accompagnato dalla benedizione di Ambrogio, perché questo poteva predisporre il tuo animo a una più rapida conversione. Oh, Agostino, Agostino, mi spiace. Se fossi una vera Elena o una maledetta pagana, come dite voi, portatori di verità, avrei una forza diversa da quella che possiede la mia povera mente. Un fanatico può essere combattuto solo da un altro fanatico. Non capisci che in tutta questa storia Cristo non c'entra niente? Non ti rendi conto che qui si parla solo e soltanto di scelte politiche, di potere, esercitare potere sugli uomini e sulle donne? Trovare un'idea, un pretesto, un qualcosa per manovrarli, per renderli sudditi? Fissa Agostino con occhi di fuoco, si morde le labbra. Ora comincio a vedere chiaro il disegno di Ambrogio. Di Giovanni Crisostomo, di Teofilo e il tuo, naturalmente. Dunque esiste un solo Dio, quello cristiano. Tutti gli altri sono falsi. La verità è nelle sacre scritture, solo la Chiesa, solo voi preti sapete interpretarle. Certo, non crederei al Vangelo se non mi ci inducesse l'autorità della Chiesa, esplode Agostino. Appunto, i popoli di tutto l'impero. E poi quelli del mondo intero devono essere tutti cristiani, ma nessuno può ragionare e pensare. Tutti devono dipendere da voi preti per salvarsi. Ma è meglio tenerlo separato, questo esercito di schiavi, e così ne cancellate la metà. La donna portatrice di vita. Non dimenticare che ai primordi c'era un mondo senza armi né eserciti. Un mondo in pace in cui arti, tecnologie, esperienza religiosa e medicina erano patrimonio della donna. Incarnazione dello spirito del mondo, la grande madre terra, la donna che partoriva nei templi, mentre voi ora dovete renderla simbolo del male. Ed ecco lì, tra le gambe della donna, avete cominciato a disegnare un nido di immondizia. Sapete perfettamente quale forza naturale scorre nel sangue dell'uomo, quale tempesta, e voi afferrate quella forza, la dominate, ve ne impadronite, ne fate un simbolo del male. E l'evento più bello, l'amore che fa proseguire la vita, voi lo sporcate. Per controllare gli esseri umani, per controllare l'uomo, state riducendo a un sacco di immondizia la donna. E Ambrogio non fa che parlare di verginità. E mi hanno detto che tu stai organizzando dei conventi per rinchiuderci dentro delle povere disgraziate e tenerle segregate una vita intera. E anche tu non fai che parlare della verginità e del peccato e della dannazione. Agostino, tu, Ambrogio, Giovanni e Teofilo state costruendo una religione della morte. Agostino l'ha ascoltata seguendo con il movimento delle labbra la foga della mia maestra. Respira a fatica, è emozionato anche lui. Troppo riflettuto e discusso sul significato del male. E comunque ti posso assicurare che la sua vera accezione l'ho trovata proprio negli scritti neoplatonici. Tutto ciò che esiste è bene. Mentre il male di cui cercavo l'origine non è una sostanza. Dio ha fatto tutte le cose buone, non esiste alcuna sostanza che non sia fatta da lui. E il male allora? Il male, i pazzi, è nient'altro che diminuzione o privazione del bene e proviene unicamente dal peccato originale dell'uomo. L'uomo è indegno, è incapace di operare il bene, impossibilitato a salvarsi senza l'aiuto di Dio. L'uomo non può scegliere, non può decidere. L'unica libertà che gli è concessa è quella di sottomettersi a Dio. Gli uomini non sono altro che massa damnationis, solo pochissimi eletti. Predestinati dall'infallibile giudizio di Dio, si salveranno. E ci fissa entrambi con uno sguardo imbevuto di fuoco. La tua rabbia, i pazzi, la conosco bene, era la mia. Io cercavo la via per procurarmi la forza sufficiente a godere Dio, ma non l'avrei trovata fino a quando non mi fossi aggrappato al mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, poiché il Verbo si è fatto carne affinché la sapienza di Dio, con cui creò l'universo, diventasse latte per la nostra infanzia. E non essendo umile, proprio come te, Ipazia, non comprendevo l'umiltà del mio Dio Gesù Cristo, né intendevo di che fosse maestro. Ipazia lo interrompe scuotendo la testa. C'è qualcosa che non quadra nella tua religione, Agostino. Con Ambrogio è stato tutto semplice. Mi trovavo dinanzi a un abilissimo uomo politico, al vero capo nato per comandare anche gli imperatori. Unica caratteristica luminosa la sua voce. Ma i fatti sono evidenti. Un uomo è tale per ciò che fa e non per ciò che dice. Mentre tu, Agostino, per me ancora ti ammanti di un po' di mistero. Qual è la leva che ha mosso Ambrogio? E scuote ancora la testa. Io non dimentico la tua analisi e la descrizione dell'autonomo percorso della ragione. Tu asserivi che la ragione conduce all'intelligenza e alla conoscenza. Certo, ma facevo una premessa. L'autorità esige la fede e prepara l'uomo alla ragione. Non era questo che affermavi ad Alessandria. Questo te l'ha inculcato Ambrogio. No, Ipazia. Il fatto è che ormai mi sto abituando a difendermi dagli attacchi di gente come te, che s'accontenta di confidare nella sola ragione. La sola ragione, Ipazia, porta alla morte, tu lo sai. Noi abbiamo bisogno dell'autorità. L'autorità è lo strumento scelto dalla divina provvidenza per condurre l'uomo alla salvezza. L'autorità è complementare alla ragione. La precede ed esige la fede. Senza l'autorità non c'è speranza e l'unica autorità è quella di Dio divenuto uomo. Una volta accettato questo mistero della fede, allora possiamo incamminarci verso il nostro destino lungo la nostra via, la felicità. Allora questa via possiamo percorrerla illuminati dalla vera filosofia e dalla vera religione. Ipazia sembra rassegnata, stanca. Poggia le mani sulle ginocchia. Stavo per declamare un elogio della ragione. Volevo dirti che quando la ragione rovescia gli idoli diviene essa stessa fonte di vita. Ma mi rendo conto che è inutile sprecare tempo con te ormai. È inutile. Agostino, come se non avesse udito, si alza, volge il capo verso il mare e riprende il suo panegirico da dove l'aveva interrotto, poiché il cammino di ogni vita buona e felice è posto nella vera religione con la quale si venera l'unico Dio e con pietà purissima lo si riconosce principio di tutte le cose, dal quale l'universo ha la sua origine, il suo sviluppo e la sua consistenza. In modo più evidente si scopre l'errore di quei popoli che preferiscono venerare molti dei piuttosto che l'unico vero Dio e Signore di tutto per il fatto che i loro sapienti, che chiamano filosofi, hanno scuole contrastanti e templi comuni. Perciò ci conviene venerare e conservare col Padre, col Figlio, il dono stesso di Dio, ugualmente immutabile, Trinità di un'unica sostanza, unico Dio dal quale siamo, per il quale siamo e nel quale siamo, l'unico Dio per opera del quale fumo fatti, la sua somiglianza per la quale siamo formati all'unità e la pace mediante la quale aderiamo all'unità, il Dio che disse avvenga e il Verbo per mezzo del quale fu fatto ciò che di sostanziale e naturale fu fatto, l'unico Dio dal quale tutto viene, per il quale tutto esiste, che tutto racchiude a lui la gloria nei secoli. Amen, conclude Ipazia, ma senza ironia, con i segni di un profondo sconforto sul volto e negli occhi. Che tristezza, Agostino, per te e per tutte le povere creature indifese che ti ascolteranno. Quindi ogni essere umano che vuole incamminarsi lungo una vita buona e felice deve necessariamente venerare il tuo Dio? Credere nella tua religione? Al di fuori del cammino da voi segnato, senza il vostro permesso, senza la vostra benedizione per i popoli della terra, non solo ci sarà la dannazione eterna, ma in questa vita ci saranno persecuzione e morte. Hai letto la lettera del tuo Ambrogio all'amico Pisidinio Romolo, vero? E lo fissa con aria di sfida. Per la prima volta Agostino abbassa gli occhi e fa un timido cenno affermativo con la testa. Il tuo Ambrogio, l'uomo che sta mutando il cammino della storia, giustifica tranquillamente il massacro dell'Esodo e fa capire chiaramente che tutti i pagani, tutti gli ebrei, tutti coloro che non si piegheranno a voi, tutti potranno essere legittimamente sterminati. E scuote la testa, mossa da quell'inguaribile amore per ogni palpito di vita. Non avresti mai dovuto abbandonare le ricerche e la scrittura dell'Enciclopedia delle Arti Liberali. Invece che a Milano dovevi venire ad Alessandria con noi, con mio padre, nel nostro centro studi. Non dico che avresti trovato tutte le risposte, ma avresti onorato con dignità il tuo Dio per quel grande dono che ti ha elargito, quella tua mente acuta. Non capisci, Agostino? Se uno di noi due, pieni di conoscenza come siamo, fa del male, è perché l'abbiamo deciso. Ma che dire della maggioranza delle creature che vivono come vegetali, imbottite solo di superstizioni? A chi affidare il compito di liberare queste creature? Al sacerdote o al filosofo scienziato? L'oggetto della ricerca filosofica è lo stesso essere divino manifestatosi nel Verbo incarnato. La vera filosofia coincide con la vera religione, ma questa ricerca deve effettuarla solo la Chiesa e solo noi sacerdoti possiamo predicarla e diffonderla. E la sonorità della voce diluisce in una tonalità ferma, incrollabile. Quindi gente come me, Shalim e i miei compagni del centro studi non può rimanere neutrale nei confronti del cristianesimo. E accenna a mordersi le labbra quasi parlando con se stessa. So che Shalim è cristiano e battezzato, spero proprio che lui riesca laddove io sto fallendo. E mi scruta con occhi ardenti. Non riesco a tenere a freno la passione del mio cuore. Mi spiace per te, Agostino, ma il Cristo che ammiro io non è lo stesso di cui parlate tu e Ambrogio. Il mio Cristo è un ribelle che si è sacrificato per eliminare la schiavitù fisica e mentale. Con gente come te, Ambrogio e Teofilo, io non ho nulla da spartire e tremo mentre pronuncio queste parole. E infatti Agostino ne approfitta subito. Questa è l'influenza di un maestro. Tu, Shalim, sicuramente non mi avresti mai risposto in questo modo se non avessi incontrato Ipazia. Vuoi negarlo? Non voglio causare problemi alla mia maestra. Lei non ha bisogno della mia difesa, ma è una creatura sporca solo di sabbia. È pura come il bagliore unico. È irripetibile di questo tramonto. No, non potrei. Ipazia è stata per me quello che Ambrogio è stato per te, ma tu dici che Dio si è rivelato a te e che la sua luce ti ha illuminato. E allora, se questo è vero, al di là delle fini disquisizioni teologiche, se è vero che la verità è entrata nel tuo cuore, perché tu parli di cuore, il cuore a volte è la sapilunga della mente, bene? Ora tu devi dirmi cosa pensi veramente di Ipazia, cosa sente il tuo cuore di questa creatura. Tu devi dirmi se senti che lei è pura, incontaminata e portatrice di bene. E protendo le mani, tremando. Agostino è rimasto scosso. Tu non sei uno studioso, Shalim, né un falso cristiano. Sei solo un giovane innamorato della sua maestra. Questo lo capirebbe anche un cieco. Giunge le mani, se le tortura, mi fissa mordendosi le labbra. Eppure mi hai messo con le spalle al muro, e dietro le spalle c'è la mia coscienza, e nulla al mondo mi costringerebbe a mentire. Sì, Shalim, la tua maestra è pura, vive in uno stato che conosco fin troppo bene, è presa dalla filosofia, è certa che essa rappresenti il coinvolgimento di ogni attività inerente alla realizzazione del fine ultimo della vita umana, ma è una creatura pura. E volge lo sguardo verso Ipazia, un'espressione di grande turbamento negli occhi e sul volto. Dimmi, Ipazia, quello che sente il tuo cuore. La mia maestra, sporca di terra, avvampa di sole rosso, con un tono fermo si rivolge ad Agostino. Qualunque religione, qualunque dogma è un freno alla libera ricerca dell'uomo. Può rappresentare una gabbia che non gli permette di indagare liberamente sulle origini della vita e sul destino dell'uomo. Brilla l'acutezza penetrante del suo sguardo. Ma questa libera ricerca oggi è in grave pericolo. Se Ambrogio è riuscito a soggiogare una mente libera come la tua, allora può ridurre in poltiglia qualunque altra. Agostino si passa una mano sugli zigomi sporgenti, quasi a voler nascondere l'espressione del volto. Ma dai suoi occhi traspare il conflitto che Ipazia ha scatenato nel suo cuore. Resta per molto tempo così, avvolto dal polverio rosso del tramonto. mentre un disordinato stormo di pipistrelli ha preso a guizzare in mezzo a noi. Si alza, fa per andarsene, poi si avvicina a Ipazia. Con mani tremule le cinge il capo. Negli occhi l'intensità del supremo tormento interiore. Poi le falangi allentano la morsa, restando così, allungate e tremanti. E infine sfiorano i capelli ribelli con una timida carezza. È passata una settimana dall'incontro con Agostino. Di ritorno da Cartagine ci siamo fermati una giornata a Tamugadi, aggirandoci inutilmente tra le nicchie semivuote della biblioteca. Siamo rientrati da poco ad Alessandria. In Via del Sole c'era solo Epicrate ad attenderci. Abbiamo consumato un pasto frugale, poi, dopo la dodicesima ora, ci siamo incamminati verso il Serapeo, portando con noi il solo cavallo nero di Ipazia. Il ronzino bianco è morto durante il nostro viaggio a Cartagine. Evitiamo le vie centrali, quelle illuminate. Siamo diretti al quartiere di Rakotis lungo i resti delle vecchie mura della città, seguendo i canali, anche se c'è un discreto traffico di carri che trasportano mercanzie. Quando passiamo davanti alla casa di Valeria, Ipazia vorrebbe chiamarla per proporle di venire con noi, ma io mi oppongo. Per adesso è meglio continuare a serbare il segreto sui sotterranei. È una notte senza luna, senza stelle. Il cielo è stranamente coperto di nuvole. È oltre un mese che hanno tolto le guardie imperiali che presidiavano il Serapeo e la colonna di Pompeo, ma il piccolo esercito di monaci parabolani continua a sciamare liberamente. Prima di raggiungere il monumento, leghiamo il cavallo nell'atrio di un vecchio edificio termale abbandonato. Raggiungiamo la piccola costruzione attaccata all'impianto di ispezione della rete fognaria della città, a pochi passi dalla colonna di Pompeo. Comincia a cadere una pioggerella silenziosa. Riusciamo a trovare la lastra di marmo, la spostiamo. La porta di ferro non si muove. Uniamo le nostre forze, ma non cede. Deve essere franato un po' di terreno. Scaviamo con le mani, senza arrenderci né perderci d'animo, e alla fine la grata si apre. Ci infiliamo dentro, chiudiamo alle nostre spalle la porta arrugginita. Manca l'aria, si respira a fatica. Accendo la lucerna e mi appare il volto della mia maestra, sporco di terra e di ruggine. Capelli liberi e ribelli, occhi colmi di trepidazione. Gli originali dei commenti ai commenti, compresi i miei, li nascondemmo in una delle anfore che portasti al faro. Ora lo ricordo perfettamente, Shalim. Quello di cui non sono certa è se le copie le abbiamo lasciate qui sotto oppure se le portammo sulla nave di Zosimo. E cerca di togliersi dal viso croste di ruggine. Quei giorni terribili sono avvolti nella nebbia e si strazia le labbra con i denti per frenare l'emozione. Si trovano qui, Pazia, ne sono certo. La sezione dedicata agli atomisti, Teone, la affidò proprio a me. Fui io a preparare i sacchi nella biblioteca, anche se facevo di tutto per affrettarmi. Gettavo un'occhiata ad ogni rotolo e codice. Ma un commento al testo di Moco? Proprio non lo ricordo. E Democrito? Penso di sì, forse anche più di uno. Ma non sono certo che ci fosse quello che cerchiamo noi. Un commento di Democrito al testo di Moco? Non mi pare. E allora muoviamoci. Se c'è qualcosa dovrebbe trovarsi alla metà di questo cunicolo, più o meno dove preparasti le anfore, ricordi, Shalim? E protende una mano sfiorandomi un fianco per spingermi a proseguire. Ci addentriamo nel budello sotterraneo e alla fine raggiungiamo la parte centrale con le nicchie rettangolari ancora piene di rotoli e codici, ma sono quasi tutte copie di testi di religione e di botanica. Ogni tanto Ipazia mi porge un rotolo, come l'opera di Manetone, e lo metto nel sacco di juta che ho portato con me, ma non riusciamo a trovare quello per cui siamo venuti. Mio padre attribuiva a questi due trattati un'importanza particolare. Non era da lui mischiarli con altri. Beh, ma stiamo parlando di copie. Possibile che anche ad esse abbia riservato un trattamento speciale come gli originali? E mi guardo attorno perplesso. Un cunicolo sotto la biblioteca e un cunicolo sotto il cunicolo? E il mio sguardo si avventura nella penombra, oltre la parte centrale, dove c'è una nicchia a forma di altare votivo. I sotterranei del Serapeo sono stati costruiti oltre 2 secoli fa, quando gli imperatori romani non avevano promulgato alcun editto di proibizione per i riti ellenici. E perché allora i costruttori l'avevano edificato? Esprimo questi dubbi anche a Ipazia. Ci avviciniamo, un altare al dio Helios. Helios, sulla quadriga. Helios, il dio della luce. I trattati sulla luce. È così ben incastonata la piccola lastra di alabastro verdognolo nella nicchia che con le dita non si riesce a spostarla. Tiro fuori il pugnale da sotto l'ascella. Ipazia mi fissa sgomenta. Prendo a scavare, a forzare, a intaccare la pietra calcarea e alla fine riesco a rimuovere la piccola lastra. Inserisco la mano e al tatto sento un codice di pergamena. Lo porgo a Ipazia che si avvicina, la lucerna e grida di gioia. Poi le porgo l'altro codice. Moco e Democrito, i commenti sul primo trattato della luce. Oh, li lessi 6 anni fa. Non ne capivo l'importanza, ma come l'aveva compresa Teone. Oh, Shalim, Shalim, come sono felice. E li stringe al petto e mi abbraccia. Che darei per avere gli originali assieme alle opere complete di entrambi questi giganti della scienza. Le faccio cenno di mettere i due volumi nel sacco, ma scuote la testa. Felice come una bambina, mi strappa la lucerna e comincia a correre verso la postierla. La seguo a fatica, spegniamo il lucignolo, fuori c'è silenzio assoluto e aria pulita. Rimettiamo la botola al suo posto, fissiamo la piastra di ferro, facciamo scivolare sopra la sottile lastra di marmo, strappiamo dei rovi cercando di mascherare la terra che abbiamo rimosso. Ci incamminiamo verso le terme abbandonate, ma proprio quando stiamo slegando il cavallo, non molto lontano da noi, sentiamo prima dei rumori indistinti, poi sempre più chiari e vicini, dei passi cadenzati, parlano anche in latino. Potrebbero essere soldati o monaci. Ipazia salta sul cavallo, io balzo dietro di lei, le sussurro in un orecchio di mettere i due testi nel sacco e di reggerlo lei. Mi faccio passare le briglie mentre lei s'afferra alla criniera. Dirigo lentamente l'animale fino allo stradone che porta al canale. S'odono delle grida, sprono il destriero al galoppo. L'animale conosce il cammino. Sembra volare con le gambe, artiglio i suoi fianchi. Con un braccio cingo la vita di Pazia. Il mio cuore sta scoppiando per la paura. Sento anche il suo che batte all'impazzata come il mio. Si odono grida in latino sempre più vicine. Sprono ancor più il cavallo. Uno scarto improvviso, rischiamo di cadere. Sono costretto a stringere forte quest'angelo al mio petto, al mio corpo. Le voci stridenti sembrano allontanarsi un po'. Resta solo questa pioggerella che ci bagna i volti, la mia faccia nei suoi capelli, il fuoco della sua guancia che brucia assieme alla mia bocca che la sfiora, la sua bellezza che trema fra le mie braccia, stella irraggiungibile. Ipazia piange. Freme, spaurita, mi scongiura di fermare il cavallo, le grido, sconvolto, che il cavallo è suo, che solo lei ha il potere di fermarlo. Se è così che vuole, io scenderò e andrò via. E lei non sa cosa fare mentre bruciamo, incollati uno all'altra, accenna a liberarsi dal mio abbraccio. Non s'odono più le voci che gridano. Il suo corpo agile tarda a guizzare per essere libero. Abbiamo quasi raggiunto l'inizio di via del Soma illuminata, ma è più sicuro proseguire lungo le mura e il canale, nel buio. È d'accordo anche lei quando glielo grido con voce strozzata. Poi Ipazia emette un gemito disperato. Il cavallo si blocca, sfilo le braccia dal suo corpo, abbandono la sua guancia incendiata, salto a terra. Mi tremano le gambe, afferro le briglie dell'animale e lo tiro verso il buio. Riesco a cogliere l'immagine del volto di Pazzi rigato di pioggia, i suoi occhi colmi di pianto, mentre si martirizza le labbra e scuote il capo.